Sezione 16 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianara. A Giuseppe Garibaldi, 3 novembre 1880. Il dittatore, solo, alla lugubre schiera davanti, ravvolto e tacito cavalcava. La terra e il cielo squallidi, plumbei, freddi intorno. Del suo cavallo la pesta udiva si guazzar nel fango. Dietro s'udivano passi in cadenza e di sospiri dei petti eroici nella notte. Ma dalle zolle di strage livida, ma dai cespugli di sangue roridi, dovunque era un povero brano. O madri italiche, dei cuor vostri, saliano fiamme castri parevano, sorgeano voci chinni suonavano, splendea Roma olimpica in fondo, correa per l'aere un peana. Sorse in mentana l'onta dei secoli dal triste amplesso di Pietro e Cesare. Tu hai, Garibaldi, in mentana, su Pietro e Cesare posto il piede. O d'aspro monte ribelle splendido, o di mentana superbo vindice, vieni e narra, Palermo e Roma, in Capitolio a Camillo. Tale un'arcana voce di spiriti correa solenne per ciel d'Italia, quel dì che guairono i vili, botoli timidi della verga. Oggi l'Italia t'adora. Invocati la nuova Roma, novello Romolo. Tu ascendi, o divino, di morte lungi i silenzi dal tuo capo. Sopra il comune gorgo dell'anime, te, rifulgente, chiamano i secoli alle altezze al puro concilio dei numi indigeti sulla patria. Tu ascendi, e Dante dice a Virgilio, mai non pensammo forma più nobile d'eroe. Dice Livio, e sorride, è della storia, o poeti, della civile storia d'Italia, è questa audacia tenace ligure, che posa nel giusto e dall'alto mira e si irradia nell'ideale. Gloria a te, padre. Nel torvo fremito spira dell'Etna, spira nei turbini dell'Alpe il tuo cuore di leone incontro a barbari e da tiranni. Splende il soave tuo cuor nel cerulo riso del mare, del ciel dei flori di maggi diffuso sulle tombe e i marmi memori degli eroi. Fine della sezione 16. Registrazione di Marzia Marianara.